Benvenuti su Casa Luneas, web radio podcast, dove le storie prendono vita e la musica è un viaggio. Mettetevi comodi, il racconto sta per cominciare. Allora, proviamo a fermarci un attimo. Immaginiamoci un vicolo, uno di quelli stretti, polverosi, magari in Sud America. Senti quasi il caldo, l'odore di mango, un po' di benzina, quella malinconia sottile. Sì, un'immagine molto forte. E in questo scenario, ecco, si muove una figura, quasi, non so, sospesa, un vecchio musicista. Cammina piano, sembra seguire un ritmo che ha solo lui nella testa, un bolero dimenticato. Un luogo dove forse la voce più potente è quella che non si sente, ma che rimane. Esatto, e questo ci porta dritti a Casa Luneas, e attenzione, qui alla pronuncia è Luneas, e al lavoro di Virginia Luneas, anche qui, Luneas. Ah sì, il suo progetto di scritture senza tetto. Proprio quelle, narrazioni che non cercano, diciamo, grandi palcoscenici, ma si infilano sotto la pelle, trovano casa nell'intimità di chi legge. Un concetto molto bello. E oggi, guarda, ci vogliamo addentrare in una di queste storie, un racconto particolare della sua collana Sottopelle. Parliamo di La voce del vicolo. Cerchiamo di capire cosa ha di speciale. Assolutamente. La collana Sottopelle, già il nome dice molto, no? È proprio questo, sono racconti che sussurrano, non gridano. Non alzano la voce, dici? Esatto. Sono frammenti di vita, immagini, sensazioni che ti restano dentro, appunto sottopelle. E come spiega la presentazione di Casa Luneas, toccano temi universali, eh? L'amore, il tempo, la memoria. I legami invisibili. Proprio così, attraverso storie molto intime, spesso ambientate in luoghi suggestivi, che diventano quasi personaggi loro stessi, carichi di atmosfera, di significato. Ed è proprio quello che vogliamo fare oggi, no? Inoltrarci insieme in questo vicolo narrativo. Provare a sentire l'atmosfera, a sviscerare i temi forti della voce del vicolo. Soprattutto la figura del maestro, immagino. E l'idea dell'eredità invisibile. Esattamente. Quella voce che parla nel silenzio. Allora, pronti? Entriamo in questo vicolo. Andiamo. Bene. Allora, partiamo dall'ambiente. Il racconto ci butta subito lì, in questo vicolo polveroso, da qualche parte ai piedi della cordigliera. Sud America. Sì, non dice esattamente dove, lascia un po' nel vago. Esatto. E l'autrice è bravissima con i dettagli sensoriali. Ti avvolge. Senti l'odore di mango, benzina e malinconia. Poi arriva il caffè tostato, le foglie secche per terra. Ci sembra quasi di essere lì. Proprio. E la luce. Descrive il sole che filtrava tra le lamiere dei tetti, le ombre sui muri screpolati, i fili elettrici tutti aggrovigliati. Come rami secchi, mi pare, dica. Bellissima immagine. Sì. E senti anche la vita intorno, il mercato vicino, le donne che vendono papaya, i vecchi che giocano a domino sotto un albero di ceibo. È interessante come l'ambiente non sia solo uno sfondo, vero? Sembra quasi che respiri questo vicolo. È già pieno di storie, di odori, di memorie, ancora prima che arrivi il personaggio principale. Certo. Questa densità, diciamo, prepara il terreno. Ci dice che dobbiamo ascoltare in un modo diverso, non solo le parole. Hai colto il punto. E in questo scenario si muove lui, il maestro, il vecchio cantautore. È il cuore del vicolo, anche se un cuore silenzioso. Cammina piano, dicevi. Sì, un passo lento, ma non è incerto, eh. Sembra che segua proprio un suo ritmo, un bolero dimenticato, e ha una chitarra con sé. Però è una chitarra che non suona più. Il testo è chiaro su questo. Non cammina per farsi ascoltare, ma per lasciare un'orma. Lasciare un'orma. Forte. Ha il viso segnato dal sole e dagli anni. Ma gli occhi. Gli occhi hanno una luce particolare che sembrava venire da lontano. E poi c'è quel dettaglio. Quale? Che non si gira se lo chiamano per nome, perché sta ascoltando. Ascoltava, dice il testo. Lo vedi fermarsi davanti alle case diroccate, ai murales sbiaditi, come se leggesse spartiti invisibili. Ecco, e qui tocchiamo un nodo centrale, secondo me. Il significato di questo silenzio. Non è un vuoto, è una presenza diversa. Spiegati meglio. C'è quella scena, no? Quando un ragazzo gli chiede perché non suona più. E lui cosa risponde? Ah sì, gli dice perché ora ascolto, punto. Esatto. Perché ora ascolto. Questo cambia tutto. Il suo silenzio non è passivo, è un atto, è ricezione, osservazione, è memoria che si accumula. Assorbe il vicolo, dici? Proprio così. Gli odori, gli sguardi, i rumori, tutto. E li trasforma in quella che il racconto chiama una sinfonia silenziosa. È affascinante come venga introdotto questo tema dell'ascolto che va oltre l'udito, no? Coglie le vibrazioni sottili del luogo, delle vite. Addirittura la sua camminata è descritta in termini musicali, con intenzione, con pause, con ascolto. Esattamente, un silenzio che compone. Un silenzio che compone, bellissimo. Ed è questo il paradosso meraviglioso al centro de La voce del vicolo. Lui è silenzioso, la chitarra tace, ma la sua voce intesa come essenza, influenza, quella rimane, si diffonde. C'è l'episodio della panchina, vero? Sì, cruciale. Una sera, sulla solita panchina di pietra, racconta a una ragazza la storia di una canzone mai scritta. E la sua voce viene descritta come roca ma delicata, come una carezza. Un momento molto intimo. Intimissimo. E la ragazza, quasi per istinto, lo registro di nascosto con un vecchio cellulare. Ma il testo sottolinea, non è un furto, è un modo per custodire quella voce, quella memoria. E quella registrazione diventa il veicolo della sua eredità. È significativo che la chiamino memoria, non musica. Vero, non ci avevo fatto caso. Memoria. E questa memoria sonora inizia a girare in modi, quasi leggendari. Attraverso piccole radio locali, la sentono i pescatori, i venditori di frutta, la passano via radio CB, i camionisti. Diventa un richiamo antico, qualcosa che parla di loro, anche se non sanno chi sia il maestro. Esatto, tocca corde profonde. E nel frattempo, la ragazza cosa fa? Trascrive le sue parole, storie di amori, viaggi, cani, nel suo quaderno dalla copertina rossa. Cercando la melodia nascosta tra le parole, forse? Forse. E annota quella frase del maestro, quella un po' enigmatica. Ah sì? La musica non è fatta per essere capita, è fatta per essere dimenticata nel modo giusto. Che apre riflessioni enormi, sul rapporto tra arte, memoria, oblio. Forse l'impatto vero non è capire, ma come una cosa risuona e si trasforma dentro di noi. Già, potrebbe essere. Poi però arriva la rottura, la scomparsa. Il racconto descrive molto bene il vuoto che lascia. Sì, quella mattina non passa. E il vicolo sembra svuotato di senso. Cambia l'atmosfera, i negozi chiudono prima, è tutto più cupo. La ragazza torna alla panchina. Esatto. E ci trova solo una corda di chitarra spezzata e un foglietto con scritto «La musica è dove non la senti». Forte anche questo. E il vicolo diventa muto. Stavolta è un silenzio diverso, vuoto. I colori sbiadiscono. Come se la sua assenza avesse spento qualcosa nel luogo stesso. Ed è proprio questa assenza fisica che fa emergere il concetto di eredità invisibile. Il maestro diventa, come dice magnificamente il testo, un'assenza che parlava. Un'assenza che parlava, bellissimo. La sua influenza non solo non sparisce, ma si rafforza. Si propaga in modo sotterraneo. La registrazione continua a girare. Il quaderno rosso custodisce le parole. E poi arriva qualcun altro. Esatto. Compare un giovane cantautore che inizia a suonare nel vicolo. Ma attenzione, non imita il maestro. No, non è un'imitazione. Per niente. Ne raccoglie lo spirito, diciamo. Continua il viaggio. Usa le pause, i silenzi, come aveva fatto il vecchio. E così, piano piano, il vicolo ricomincia a cantare. Attraverso queste nuove presenze? Sì. Il giovane trova il quaderno, legge le parole, suona non per la fama, ma per portare avanti quella ricerca. E riceve quella rosa dalla donna anziana. Con la dedica. Questa è per chi canta senza voler essere ascoltato. Perfetta. Perfetta. E lui stesso inizia ad aggiungere voce al quaderno, diventa un diario collettivo. Ritrova persino la pietra con la nota musicale incisa dal maestro. Il vicolo diventa un canto condiviso. Che bella evoluzione. E la scena finale chiude il cerchio in modo molto toccante, secondo me. Sì, sono passati anni. È il primo giorno d'estate. Qualcuno lascia una rosa sulla panchina, come un rito. E torna alla ragazza. Ora è una donna, con suo figlio. Egli racconta del maestro. Sì. E il bambino, logico, chiede, ma esisteva davvero? E la madre, la risposta è stupenda. Dice. Esiste ancora ogni volta che qualcuno canta senza voler essere ascoltato. L'essenza pura del racconto. Wow. Trascende il corpo fisico. Proprio così. E il bambino cosa fa? Lascia la sua traccia, una pietra dipinta. Gracias por la musica. Un gesto bellissimo. Il vicolo si riempie di gente, musica acustica, candele. Il giovane cantatore dà il quaderno al bambino e lui scrive. L'ultima frase, sì. Il maestro è il vento che mi insegna a respirare. Chiusura perfetta. Davvero perfetta. E se proviamo a, come dire, tirare le fila, i temi sono chiarissimi, no? Il silenzio come comunicazione, come ascolto attivo. Potentissimo. La memoria come forza viva che si trasmette, si trasforma. Il potere dell'ascolto profondo, quello che va oltre il suono. L'eredità che non ha bisogno di presenza fisica. Esatto. L'influenza invisibile ma concreta. E poi l'arte, musica, scrittura, che cerca connessione, non pubblico. La voce del vicolo incarna davvero lo spirito sottopelle e di Casa Luneas. È una storia che ti entra dentro piano piano. E non dimentichiamo il vicolo, è molto più di uno sfondo. È un personaggio, custode di memoria, amplificatore di musica e silenzi. Verissimo. Quindi, se dovessimo proprio distillare un messaggio chiave da questa nostra chiacchierata, direi che la forza incredibile di queste influenze non dette, di queste eredità silenziose. Che forse ci plasmano più delle parole gridate. Esatto. Il maestro, con la sua assenza presente, e il vicolo che diventa canto collettivo, sono l'emblema di questo. E bisogna dare atto a Virginia Luneas, di saper catturare questa sensazione così impalpabile, no? Questa vibrazione sottopelle. Con una scrittura delicata ma molto incisiva. E questo naturalmente ci riporta al progetto più ampio, Casa Luneas. Certo. Questo racconto è una porta, diciamo. Per chi volesse esplorare di più, il sito è www.casaluneas.it. Lì si trovano altre storie della collana sottopelle che vibrano su frequenze simili. Ad esempio? Beh, penso a Il mare che non si vede o Sotto il portico blu, ambientato a Napoli. Esplorano anche loro la comunicazione non verbale, le presenze nei luoghi. Quindi l'invito è ad approfondire. Sicuramente. Potrebbe essere un'esperienza interessante per chi ha apprezzato queste atmosfere. Ottimo. E per chiudere, come al solito, lasciamo un pensiero, una piccola domanda che nasce da questo racconto. Potremmo chiederci, quali sono le voci, le eredità silenziose che risuonano nei nostri vicoli personali? Quelle influenze che sentiamo anche se non sono esplicite, magari anche quelle che pensavamo dimenticate. Oppure potremmo chiederci, come cambia il nostro mondo se proviamo ad ascoltare davvero, con tutto noi stessi, oltre il rumore? Che musica possiamo trovare dove sembra esserci solo silenzio? Forse la risposta è proprio lì, in quell'ascolto attento, in quel silenzio abitato che ci ha insegnato il maestro. Grazie per aver ascoltato Casa Luneas, web radio podcast. Se le parole vi hanno toccato, tornate a trovarci. Ogni racconto è un invito a restare ed a raccontarsi. Casa Luneas è l'arte di raccontare, un luogo libero, dove le storie parlano al cuore. Se vuoi sostenere questo viaggio, lo puoi fare ora. Clicca su Dona ora con PayPal nella home page di casaluneas.it. Ogni gesto è una scintilla che tiene accesa questa arte di raccontare e la voce di Virginia Luneas.